Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Trovo che sia molto bello, da ex sindaco di Firenze, che il percorso che la Germania e l'Italia, come grandi economie manifatturiere europee, hanno avviato verso un nuovo rinascimento industriale europeo. Sentite che evocazione fiorentina di grandeur di una volta dell'Italia, che si spera di rivedere almeno in minima parte, che ha annunciato Renzi oggi nel vertice intergovernativo italo-tedesco con la cancelliera Merkel, cancelliera che si è detta molto colpita dai progetti italiani. Cioè, qui c'è nato un cambiamento strutturale, quindi cosa dobbiamo prendere? Una specie di Big Bang praticamente in Italia, almeno quello dalle cose che man mano annuncia Matteo Renzi. E pensate che c'è una strana sintonia con questo ipotetico Big Bang che potrebbe esserci, perché proprio oggi l'Università Americana di Harvard ha detto che sono stati scoperti i primi tremori del Big Bang, quello sia gli effetti prodotti dalla grande esplosione, come sapete ha dato origine all'universo e al processo di espansione che è attivo ancora oggi. Quindi hanno percepito, grazie a un telescopio, uno immagina col telescopio si guardi, invece si ascolta anche, questi echi del Big Bang che sono stati captati al polo sud, i vagiti insomma dell'universo di 14 miliardi di anni fa, e adesso dovranno elaborare questi dati. Ma prima di qualsiasi Big Bang reale o effettivo annunciato, io direi che come sempre vi racconto la giornata di oggi e poi man mano alcuni argomenti da approfondire con gli ospiti. Però, visto che la cancelliera Merkel ha detto è stata profondamente colpita da questi annunci di riforme di Renzi, voi a vostra volta siete rimasti colpiti? Come sapete c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri interventi, per le vostre opinioni, oppure i messaggi al 349-238-6666. Vertice italo-tedesco, Renzi conquista la Merkel a Berlino, sono molto colpita, dice per l'Italia è un cambiamento strutturale. Debiti della pubblica amministrazione, Tajani insiste, ci vuole un decreto legge, settembre è troppo tardi. Crimea, dopo il plebiscito nel referendum per la secessione, annunciate sanzioni da Stati Uniti e Unione Europea contro Mosca. Tragedia per Mick Jagger, la sua compagna trovata impiccata a New York. Big Bang, trovate le tracce dell'espansione cosmica. E per il calcio, stasera posticipi per Roma e Napoli. Napoli in realtà che ha pareggiato, anzi ha perduto poco fa contro il Torino, Torino 0, Napoli 1, ha vinto il Napoli. Partiamo dall'incontro bilaterale, come dicevo, tra il Presidente del Consiglio Renzi e la cancelliera tedesca Merkel. Merkel che si è detta, vi ho detto, molto colpita dai cambiamenti annunciati da Renzi. Alla fine l'accordo c'è, la cancelliera Angela Merkel è colpita dall'entusiasmo di Matteo Renzi, ma sul patto di stabilità non ci sono novità, so bene che l'Italia lo rispetterà, dice la cancelliera, gli fa eco il Premier, non vogliamo sforare i parametri. È soprattutto però sulle riforme che si gioca l'intesa. È stato qualche problema tecnico e comunque poi ne parleremo tra pochissimo dopo la viabilità, approfondiremo questo incontro, i risultati che ci sono stati, questo anche nel proposito di collaborazione tra Italia e Germania, anche confermato da Angela Merkel. Ma la cosa essenziale, cioè le coperture del piano di Renzi, dovrebbero arrivare dalla spending review, anche se i tempi che il Premier si augurava rapidi in realtà in alcuni casi sembrano destinati a slittare. Quindi per i pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione alle imprese c'è a questo punto il pressing del vicepresidente della Commissione europea. Settembre può essere troppo tardi. Il vicepresidente della Commissione europea Tajani insiste nel chiedere un'accelerazione sul pagamento dei debiti della pubblica amministrazione alle imprese rispetto ai tempi indicati dal premier Renzi. Sarebbe stato meglio intervenire con un decreto, aggiunge oggi Tajani, ribadendo quanto già detto a Focus Economia la scorsa settimana. La decisione di procedere con un disegno di legge con un avvio un po' tardivo nel tempo significa che altre imprese purtroppo muoiono nel frattempo. Per il vicepresidente della Commissione europea il pagamento dei debiti pregressi consentirebbe anche di trovare una copertura alla manovra, perché dei 90 miliardi dovuti alle imprese oltre 17 rientrerebbero come tasse. Entro qualche settimana, fa poi sapere Tajani, Bruxelles risponderà alla lettera inviata dal governo italiano dopo la richiesta di spiegazioni da Bruxelles sui problemi nell'applicazione della direttiva europea sul pagamento dei debiti pregressi da parte del nostro paese. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto fa ancora discutere il pacchetto lavoro, il cosiddetto Jobs Act, posizioni distanti tra CGIL all'interno della CGIL e tra la Camusso e Landini. Se sabato la stoccata era partita da Landini, che ha parlato di un atteggiamento ondivago e subalterno della CGIL nei confronti del governo Renzi, oggi è stata la volta di Camusso, che ha detto Landini ha delle opinioni che non sono quelle della CGIL, così ha detto la segretaria generale del sindacato. Spostiamoci all'estero, perché in primo piano resta sempre l'Ucraina, dopo soprattutto il referendum per la secessione della Crimea. È quello dell'autoproclamato premier della Crimea, Azionov, il primo nome sulla lista dei 21 dirigenti colpiti dalle sanzioni europee. Fra i 13 russi, tre militari ci sono, e il vicepresidente della Duma, del Parlamento russo. Sanzioni in arrivo oggi anche da oltreoceano nei confronti di diversi alti funzionari russi, tra cui stretti collaboratori di Putin e lo stesso presidente ucraino, o deposto presidente ucraino, Yanukovych. Poi capiremo qualcosa di più con l'inviata del Sole 24 Ore. Borse però per niente preoccupate dalle tensioni ucraine, intanto con Milano che ha chiuso in crescita del 2,52%, debole Pirelli, finita nelle mani dei russi di Rosneft, che già detengono il 20% dell'italiana Saras. Ben prima della campanella di borsa arriva lo scarno comunicato. Unicredit, Intesa San Paolo e Clessidra sciolgono l'accordo in Lauro 61 Camfin. Le banche reinvestono in parte in un nuovo veicolo in cui Rosneft avrà il 50%. Il restante 50% sarà detenuto da una new co composta da nuove partecipazioni, e cioè Tronchetti e soci per l'80% e dalle banche per il 10% ciascuno. Tradotto, i russi mettono tra i 500 e i 700 milioni per il 13%, anche se indiretto, di Pirelli. Mentre il fondo Clessidra, disposito dopo pochi mesi e una consistente plusvalenza, se ne va. I nuovi accordi resteranno in vigore per 5 anni, rinnovabili a scadenza. Obiettivo è sviluppare le attività e il business di Pirelli, anche rafforzando la rete commerciale in Russia grazie alla capillare presenza sul territorio di Rosneft. Governance invariata, gestione ordinaria, business plan e budget approvati a maggioranza, come avviene già oggi. Le operazioni straordinarie, invece, saranno oggetto di consultazione tra i soci della nuova partnership. Già dalla fine del 2012 Rosneft ha stretto con Pirelli una serie di intese commerciali. Pirelli, invece, in Russia dal 2011, ha 2 stabilimenti con circa 4.000 addetti e una capacità complessiva di 8 milioni di pezzi. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si torna a parlare di Berlusconi, candidato alle europee. Sapete, ne abbiamo parlato anche venerdì scorso, perché c'era stato poi l'annuncio prima del suo consigliere politico Toti, Giovanni Toti, poi direttamente di Berlusconi, che si vorrebbe candidare appunto nelle 5 circoscrizioni per le europee. Poi c'era stato qui in passato a vari costituzionalisti che hanno detto che non era possibile, e venerdì anche Paolo Armaroli, quindi di diverse formazioni e provenienze, ognuno di questi costituzionalisti aveva assicurato che non c'è possibilità per Berlusconi di candidarsi. Adesso c'è anche lo stop della commissaria alla giustizia dell'Unione Europea. Non entro in questioni nazionali, ma la normativa europea su questo è molto chiara. È con una risposta lapidaria che il commissario europeo alla giustizia Viviane Reding gela i propositi di Silvio Berlusconi di candidarsi alle prossime elezioni europee, nonostante la condanna in via definitiva per frode fiscale. Normativa europea che raccomanda agli Stati membri di non candidare chi ha riportato una condanna definitiva per reati di criminalità organizzata, riciclaggio, corruzione, anche di natura economica e finanziaria. Ma per i fedelissimi del leader di Forza Italia impedire la sua candidatura è un broglio elettorale. Se le norme europee sono chiare, dice Capezzone, altrettanto chiari sono i ricorsi e le ragioni di Berlusconi. Faremo di tutto, avverte Gasparri, affinché sia lui alla testa del partito alle europee. Berlusconi è per consenso il leader del centrodestra, ne ha preso atto anche il PD per dialogare con lui sulle riforme. Chiederemo, seguendo le vie legali, che Berlusconi guidi alle elezioni europee le liste di Forza Italia. Ma anche per il vicepresidente del CSM Vietti le norme sono chiare. Le norme nazionali sono molto chiare, ovviamente bisogna aspettare comunque per completezza la decisione che domani prenderà la Corte di Cassazione sulla interdizione. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Passiamo adesso alla pagina della cronaca. È morto dopo 5 giorni in terapia intensiva al Policlinico Gemelli il bimbo di 3 anni che era rimasto soffocato mangiando un hot dog in un ristorante Ikea di Roma. Una semplice manovra praticata immediatamente sarebbe bastata per salvargli la vita. Ci spiega quale Franca Di Girolamo, pediatra e istruttrice di manovre di disostruzione. La sentiamo al microfono di Roberta Pellegat. ci si pone posteriormente rispetto al bambino, ci poniamo dietro, lo abbracciamo sulla vita, mettiamo le due mani quindi sui fianchi e portiamo una mano, chiudiamo il pugno, lo posizioniamo sotto lo sterno, cioè sopra l'ombelico, tra l'ombelico e lo sterno, mettiamo l'altra mano sopra e iniziamo la manovra detta cucchiaio, cioè la manovra di Emlich, la manovra salvavita, cioè delle energiche e decise compressioni sottodiaframmatiche, quindi sotto il diaframma, con direzione dal basso verso l'alto in senso antero-posteriore. In questo modo cosa facciamo? Esercitiamo una pressione che spinge verso l'alto, l'aria residua nel polmone e quindi dà la spinta al corpo estraneo a uscire. In poche parole creiamo noi l'aumento della pressione nel torace, cioè creiamo il colpo di tosse. È una manovra semplice, se uno la vede e soprattutto se la fa, non la dimentica più. Basta anche mettere le manovre di disostruzione, andare su un qualunque motore di ricerca e si vedono queste manovre. È bene impararle effettivamente. Trasferiamo nell'Lodigiano con una mattinata di paura all'interno di un'azienda. Lavorava soltanto pochi giorni alla settimana e da un mese non riceveva lo stipendio. E quando ha saputo che anche a marzo sarebbe rimasto senza busta paga, ha sparato con la pistola in dotazione, ferendo il ragioniere dell'azienda e il titolare. Giuseppe Riccardi, 58 anni, guardiano in cassa integrazione della Tecnoelectric a Castiglione d'Adda nell'Lodigiano, è entrato con una pistola nel capannone della fabbrica e ha sparato, colpendo alle gambe il titolare e il responsabile amministrativo in modo non grave. Il movente del gesto, secondo i carabinieri, è sostanzialmente economico. Infatti Riccardi, che già era rimasto per un mese senza stipendio, come abbiamo detto, ha saputo che anche questo mese non l'avrebbe ricevuto. Dopo la sparatoria, l'uomo è fuggito, ma è stato bloccato nelle campagne attorno al capannone. Aveva ancora la pistola, regolarmente detenuta, proprio per il suo lavoro di guardiano. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Stanno per rientrare a Bologna i 180 passeggeri costretti a fermarsi a Zanzibar per un guasto al velivolo della Meridiana che doveva riportarli a casa. Sentiamo l'amministratore delegato di Meridiana, Roberto Scaramella. I passeggeri sono rimasti a bordo inizialmente per la risoluzione immediata. Dopo i tecnici si sono resi conto che la risoluzione dell'anomalia avrebbe richiesto più tempo e quindi i passeggeri sono stati sbarcati, riaccompagnati prima per un drink in aeroporto e poi sono stati riaccompagnati nelle strutture alberghiere. Una volta riparato l'aereo è ripartito questa mattina e adesso sono quasi in arrivo a Bologna. Purtroppo in questi scali, che sono abbastanza lontani e non particolarmente strutturati, non ci sono tutte le strutture per una saletta di accoglienza e quant'altro, quindi i passeggeri per questo motivo che sono stati riaccompagnati negli alberghi. C'è un allarme droga, cresce l'assunzione frequente di quelle pesanti, di uso di psicofarmaci senza prescrizione medica, ci si avvicina da giovanissimi all'eroina, ma all'eroina fumata, e di questo parleremo poi con la ricercatrice del CNR che ha condotto questa ricerca. Intanto c'è una drammatica notizia che riguarda il mondo della musica. Lauren Scott, stilista di moda e compagna di Mick Jagger, il frontman dei Rolling Stone, dal 2001 sua compagna, è stata trovata morta in un appartamento di lusso a Manhattan, lo riporta il New York Post. Il cadavere della Scott, che aveva 49 anni, è stato scoperto dalla sua assistente. La donna si sarebbe impiccata con una sciarpa. E dall'Australia Mick Jagger si è detto devastato da questa notizia. Siamo per chiudere al calcio con il Napoli, che vi correggo appunto prima, ha vinto 1-0 contro il Torino, mentre c'è in campo Roma-Udinese, se non sbaglio, Dario Ricci? No, hai proprio ragione Roberta, proprio Roma-Udinese, siamo al 13° di gioco, ancora 0-0 all'Olimpico, giallorossi che ritrovano dal primo minuto Capitan Totti, al rientro dopo l'infortunio, e che sono andati già vicino al gol con Gervinho, bene però la difesa dell'Udinese. Dicevamo della vittoria del Napoli, proprio all'ultimo istante, con una rete di Higuain, c'è stato un lancio in profondità, Higuain si è spintonato con Glick, tant'è che i Granata hanno chiesto il fallo a loro favore, nessun fischio è arrivato da parte dell'arbitro, Higuain ha potuto battere Padelli con un preciso diagonale di destro. Grazie Dario Ricci, intanto vedo alcuni vostri messaggi già sul fatto che Merkel sia stata colpita dalle riforme annunciate da Renzi. Vi chiedevo se a vostra volta siete stati colpiti, se avete avuto modo di seguirli, perché adesso tra poco ne parleremo. C'è la pagina Facebook di Effetto Noto, oppure i messaggi al 349-238-6666. Per esempio Cettina che dice: spero che Renzi non si riferisse nel cambio delle regole del gioco solo alle regole interne, ma anche a quelle evidentemente che muovono, dice, i nostri rapporti. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, ve le ricordo adesso in pochi secondi le notizie principali e poi cominceremo a approfondire questo incontro che è avvenuto tra la cancelliera Merkel e il nostro presidente del Consiglio Renzi. Vertice italo-tedesco, Renzi conquista la Merkel a Berlino, sono molto colpita, dice, per l'Italia è un cambiamento strutturale. Debiti della pubblica amministrazione, italiani insiste, ci vuole un decreto legge, settembre è troppo tardi. Europee da Reading stoppa la candidatura di Berlusconi, le norme sono chiare ma non entro, dice la commissaria, in questioni nazionali. Crimea, dopo il plebiscito nel referendum per la secessione, annunciate sanzioni da Stati Uniti e Unione Europea contro Mosca. Tragedia per Mick Jagger, la sua compagna trovata impiccata a New York. Calcio, nel campionato la partita conclusa tra Napoli e Torino, vince il Napoli 1-0 e sono in campo adesso Roma Udinese. Ed eccoci qui allora ad affrontare questo incontro, questo vertice italo-tedesco che c'è stato oggi. Ci aiuterà un po' nell'esegesi di come siano andate le cose Alberto Rioli. Ciao Alberto. Ah, buonasera a voi. Vice direttore del Sole 24 Ore. Allora, sentiamo prima di tutto questa diciamo evocazione prestigiosa che ha fatto Renzi tra un passato di grandi vestigia italiane e un futuro, un presente futuro che Renzi prospetta. Sentiamolo. Trovo che sia molto bello, da ex sindaco di Firenze, che il percorso che la Germania e l'Italia come grandi economie manifatturiere europee hanno avviato verso un nuovo rinascimento industriale europeo. Il rinascimento industriale europeo significa che noi vogliamo costruire un'Europa competitiva a livello globale. Noi non vogliamo essere un continente che perde l'occasione dell'appuntamento con la storia. Per questo in Italia dobbiamo cambiare alcune cose, per esempio è molto importante sul sistema della formazione avere come modello il sistema duale che in Germania ha dato dei risultati straordinari, è molto importante cambiare il sistema del rapporto anche tra potere centrale e realtà regionali, non soltanto nel mondo del lavoro, ma quello che è importante è che il rinascimento, che proprio nella mia città d'origine ha avuto uno dei momenti di massimo splendore a Firenze, sia un obiettivo condiviso fin dal prossimo Consiglio europeo, in cui sicuramente lavoreremo insieme. Quindi usciamo da questa prima parte dell'incontro con la cancelliera e i suoi ministri convinti che c'è molto lavoro da fare, ma che lo faremo insieme con grande coraggio, determinazione e anche con grande ambizione. La grande ambizione nei discorsi di Renzi non manca mai, no, Alberto Rioli, ma ci sarà questo rinascimento industriale, immagine suggestiva. Beh sì, suggestiva, nel senso che stavolta avrebbe da fare una battuta che Renzi non si è portato le slide, si è portato l'idea della fotogallery degli Uffizi, lui sa bene che anche quella è piuttosto persuasiva da un certo punto di vista. Noto come una vena di critica, diciamo. No, c'è il giusto scetticismo da cronisti e da commentatori, insomma, certo. Anche inutile salire sempre sui carri dei vincitori, per carità. Devo dire, non era un esame, evidentemente. È importante che si sia registrato un feeling umano, oltre che confermato quello tra i paesi, ovviamente. Però non bisogna girare intorno alle parole, c'è un feeling sul fatto che la Germania si è sentita rassicurata sul fatto che l'Italia farà delle riforme strutturali. Le riforme strutturali sono il pegno della credibilità confermata e di questa frase che la Merkel ha regalato a Renzi. Sono molto colpita da Renzi, le sue riforme sono efficaci, ha sostanzialmente detto, però per l'appunto perché l'Italia deve fare le riforme, che è la cosa che la Merkel ci ha sempre richiesto negli ultimi anni, obiettivamente. A proposito di riforme, sentiamo l'ulteriore sottolineatura nel discorso di Renzi di oggi dopo il vertice, nella conferenza stampa. Abbiamo avuto un appuntamento molto importante che era già stato fissato dal precedente governo e ringrazio la cancelliera per averlo confermato, perché è stata l'occasione per illustrare un processo di riforme molto ambizioso, molto coraggioso che l'Italia ha. Lo dico ai colleghi della stampa italiana perché noi pensiamo che l'Italia debba fare le riforme perché lo chiedono i nostri figli, non perché lo chiedono i partner europei. poi è bello fare le riforme insieme, poi è giusto fare le riforme insieme, poi tutti abbiamo da guadagnare dalle riforme, ma l'Italia deve smettere di pensare che si fanno le riforme perché ce lo chiede Bruxelles o Berlino o altre capitali. Facciamo le riforme perché è giusto per noi. E questo Alberto Rioli l'aveva già ribadito varie volte, no? Renzi lo ripete spesso: non dobbiamo fare le riforme perché ci chiedono di fare i compiti a casa, cioè dobbiamo fare per noi stessi, per i nostri figli, perché l'Italia insomma si riprenda. Esatto, lui giustamente ha fatto questa innovazione anche semantica di insistere sul fatto che le riforme servono a noi per uscire da questo corridoio depressivo di un'Italia piagnona e commissariata e depressa che deve fare i compiti a casa perché è sempre l'asino, il sommaro, l'ultimo della classe e quant'altro. E giustamente, con un certo orgoglio che gli va riconosciuto, lui porta in Europa, tenta di portare in Europa l'immagine di un'Italia che si sta scrollando di dosso il torpore di molti anni e ha un'intenzione di condurre in porto una serie di riforme che sono quelle che sono note a tutti, erano già nella lettera della BCE a Berlusconi, prima ancora che arrivasse Monti, il canovaccio di base è sempre quello, e lui è forte del fatto che può dimostrare agli altri leader europei in questi pochi giorni che ha dato un'accelerazione impensabile rispetto a qualche tempo fa, con molti azzardi, con molti, diciamo, è un parcheggio di quelli non propriamente eleganti, insomma ci sta sbattendo qualche paraurti, ecco, diciamo così, perché è chiaro che in questi giorni c'è una dialettica evidente tra il ministero, tra il governo e la ragioneria dello Stato, perché è chiaro che le coperture indicate fino adesso in quel Consiglio dei Ministri programmatico sulla famosa restituzione dell'IRPEF non sono propriamente quelle che la ragioneria generale dello Stato normalmente bollina come istituzionali e corrette. Ecco, quindi ci sarà un grosso lavoro persuasivo da fare tra parte politica e parte contabile. Sentiamo un attimo, vediamo se riusciamo a sentire. A Piazza Pulita c'è Maurizio Landini, visto che c'è questa polemica in questi giorni all'interno della CGIL tra Landini e Camusso. Ha accettato degli accordi che addirittura hanno cacciato dei sindacati della fabbrica, come è successo alla FIOM. Sono proprio organizzazioni sindacali di questo genere. Noi di accordi di questa natura non ne abbiamo mai fatti e siamo dovuti andare addirittura alla Corte Costituzionale per ridare dei diritti ai lavoratori. Noi siamo per garantire la parola a tutti e la libertà sindacale a tutti. In battuta, sì, vorrei dire che, a parte che mi avete chiamato voi e quindi non ho mai chiesto di andare siamo a nessuna trasmissione televisiva, no, ma nel senso che non sono io che chiedo. Ecco, la seconda cosa, vorrei far notare che siamo fuori orario di lavoro. Io ho cominciato come tanti stamattina alle 6:30 a lavorare e sono impegni che si fanno in più che non tolgono. Senta, impegni invece, vabbè, parte. Questo eviterei, ma ti risulta, Alberto Rioli, che Renzi abbia detto più volte che riesce quasi più a comunicare con Landini, che dovrebbe essere ancora più a sinistra di Susanna Camusso, che non con Susanna Camusso? Sì, sì, questo risulta, è stato sbandierato ad uso dei media più volte. C'è qualcosa che non mi torna. Se capisco l'esigenza tattica di Renzi di spaccare la CGIL creando un ponte con l'avversario della Camusso, secondo il vecchio detto che il nemico del mio nemico è mio amico, che però è una cosa da Sun Tzu, diciamo, è arte della guerra e poco altro, ma io non capisco bene Landini, perché Landini sta chiedendo una maggiore presenza sindacale, la nuova legge sulla rappresentanza, per avere più ruolo da parte del sindacato, e sta appoggiando invece così smaccatamente l'indirizzo di un premier che ha fatto della disintermediazione sociale il suo tratto principale nella politica economica. Questo vuol solo dire che lui con i sindacati non ci vuole parlare, parla ai cittadini e semmai l'intendenza sindacale segue. Alberto, invece adesso ti vorrei far sentire un passaggio sempre di Renzi alla conferenza stampa insieme a Merkel, in cui dice: noi non vogliamo andare contro, cambiare i parametri economici, gli accordi che abbiamo preso con l'Unione Europea, perché li abbiamo presi tutti insieme, però mi manca la frase conseguente, quindi vogliamo fare che cosa? Adesso prova a vedere tu se l'avevo sentito male, sentiamo. È molto importante per noi avere chiaro un concetto. Noi rispettiamo tutti i limiti che ci siamo dati a partire dai limiti del Trattato di Maastricht. Quindi l'Italia non chiede di sforare i limiti di Maastricht. L'Italia non vuole cambiare le regole dando il messaggio che le regole sono regole cattive, che vengono da qualcuno fuori da noi. Le regole ce le siamo date noi insieme e le regole sono importanti. Certo, per stare dentro alle regole che ci siamo dati occorre anche avere la forza di investire sul grande problema che l'Italia ha avuto in questo periodo. E il problema è che con le misure che noi abbiamo avuto in questi anni, il rapporto tra il debito pubblico e il PIL è cresciuto. Era il 120% nel 2011, è il 132% nel 2013. Perché? È cresciuto questo rapporto perché, nonostante che l'Italia abbia avuto un avanzo primario, il nostro problema è la mancanza di crescita. Noi abbiamo smesso di crescere, dunque oggi si tratta di rispettare i vincoli, mantenere il limite del 3%, fare un processo di revisione della spesa strutturale che resta per sempre, non misure una tantum, ma dentro questo pacchetto aiutare a recuperare la domanda interna. Ecco, Alberto Iroli, memorizza questa cosa che ti interrompo giusto un secondo, anche se so che non sei tifoso, perché c'è Dario Ricci che ci deve comunicare un gol. Da che parte, Dario? Eh sì, Roberto, è arrivato al 22esimo del primo tempo, il vantaggio della Roma con Francesco Totti al rientro. Il capitano ha siglato il 233esimo gol in Serie A, ribattendo in rete una respinta del portiere dell'Udinese Scuffet su tiro di Gervinho. Quindi siamo ora al 25esimo, Roma 1, Udinese 0, grazie al gol al 22esimo del primo tempo di Francesco Totti, che evidentemente se la cava ancora. Grazie Dario Ricci. Allora, Alberto Rioli, quindi allora lui dice rispetto alle regole, però bisogna investire sul grande problema in Italia del rapporto deficit PIL, la mancanza di crescita, però è come se mancasse poi non ho compreso io che cosa, oltre a rispettare, cioè da una parte premette dobbiamo rispettare, poi quindi invece che cosa dobbiamo fare? Rispettare, ma per non rispettare, nel senso che giustamente Renzi è stato molto abile in questa sua circonlocuzione. Bravo, sì, una circonlocuzione, diciamo, mi sembra. È stato applicato quello che era il motto dei gesuiti, entrare dalla loro porta per uscire dalla nostra. Sa benissimo che quello che la Merkel voleva sentirsi dire è che c'è un'Italia determinata, ortodossa, rigorista, che non è lì per scardinare i trattati o per fare il monello, il discolo delle compatibilità di bilancio. Si è presentato con una formulazione classica, diciamo così, nella sua prima parte di discorso parlava come avrebbe potuto parlare Mario Monti, diciamo la verità. È la seconda parte del discorso che è importante, cioè dire: d'accordo, noi questa austerità fino adesso l'abbiamo applicata come meglio potevamo e secondo i dettati dell'Unione Europea, però è chiaro che questo ci ha portato allo strangolamento. Il nostro problema è la crescita e quindi bisogna lavorare su quello. Lavorare su quello vuol dire che l'Italia si appresta a negoziare all'interno di quello che i trattati consentono qualche porzione di risorsa da destinare allo sviluppo e agli investimenti. Cominciamo da questo 0,4. Che l'Europa non è per niente convinta di poterci dare, perché comunque ha un'incidenza in ogni caso sul debito. Dall'altra ci sono una serie di paletti che sono stati messi nel congegno del Fiscal Compact, cioè l'attenzione ai cosiddetti fattori rilevanti, si dice in termine tecnico europeo, cioè a dire che un paese che è in grado di dimostrare che sta facendo riforme strutturali che riguardano un arco pluriennale e con grandi benefici di finanza pubblica, magari differiti di qualche anno, può effettivamente avere maggiori margini nell'interpretare in modo flessibile i paletti che riguardano il rapporto deficit-PIL e soprattutto debito-PIL. È questo il margine tattico che sfrutterà Renzi, soprattutto durante la presidenza italiana, una volta che sia in grado di poter dimostrare che ha abbassato le tasse strutturalmente, che sta tagliando vigorosamente la spesa pubblica improduttiva, che sta modificando l'assetto istituzionale del paese, che insomma che sta facendo correre l'Italia come mai non ha corso prima. Senti, prima di farti sentire, poi concludiamo, anche un intervento di Angela Merkel fra i vari che hai fatto, fra le varie cose che hai detto, ti leggo velocissimamente alcuni dei messaggi. Per esempio il 349-238-6666, un ascoltatore o ascoltatrice scrive: andate a guardare cosa ha dichiarato la Merkel quando ha ricevuto Monti e Letta, stesse parole identiche. Ritrovo lo stesso messaggio anche di un altro ascoltatore su Effetto Notte, che dice, vediamo se lo ritrovo, Corrado dice: già era stata colpita da Monti e Letta Giulietta Fanfaluche dice: Enzo ed Elena scrivono i fatti, li fanno a favore delle lobby e dei partiti, gli annunci a favore delle piccole imprese e dei cittadini comuni, storia vecchia o mi sbaglio? E poi Enrico dice: la Merkel è rimasta colpita perché è la prima volta che incontra un premier italiano che parla con un linguaggio molto accattivante, quindi in questo caso invece dice qualcosa di diverso rispetto a Monti e Letta. Secondo te è vero che sono cose già viste e riviste? Ma indubbiamente oggi il trionfo del linguaggio della diplomazia come linguaggio in senso stretto, gli stenografici sono abbastanza simili, poi alla fine quando si incontrano i leader di due stati che comunque non sono nemici e sono partner, soprattutto se c'è una convergenza su alcuni messaggi strategici fondamentali. Quello che forse fa la differenza è il linguaggio del corpo, il linguaggio dei sorrisi, degli ammiccamenti che un pochino ci sono stati, va detto a onor del vero, c'è stata sicuramente una condizione, perlomeno quella che abbiamo potuto vedere noi pubblicamente, ma l'ho chiesto anche ai colleghi che poi stavano là, di un discreto feeling, la cancelliera Merkel. Anche Monti, vedo adesso un'agenzia dove dice c'è feeling tra Merkel e Renzi, ci sa fare. Senti. Indubbiamente bisogna riconoscerglielo, a Renzi è sicuramente andata bene, poi deve fare le riforme, questo è un problema non banale per chi governa l'Italia. E per chiudere sentiamo anche questo intervento di Angela Merkel. Abbiamo anche parlato chiaramente delle nuove sfide che il governo, dei nuovi obiettivi che il governo italiano si è posto. Si tratta di un cambio strutturale in Italia, un programma di riforme molto ambizioso e che il primo ministro mi ha appena illustrato, e vorrei dire che auguro tutto il bene alla sua amministrazione, perché questo è un messaggio positivo che accogliamo molto bene. Si tratta di un cambio strutturale, una serie di riforme anche nell'ambito del mercato del lavoro che porteranno ad uno sviluppo migliore, positivo. Quindi voglio dire chiaramente che per me è diventato chiaro che l'Italia ha ben in vista il patto di stabilità e sa che c'è bisogno di crescita, di occupazione e d'altra parte anche di stabilità. E per quello che abbiamo deciso ovviamente con il Fiscal Pact, quindi auguriamo tutto il successo a queste riforme. Non poteva che dire questo, insomma, Alberto Orioli, no, rassicurata, e da una parte tanti auguri, andate avanti così. C'è stato un piccolo trattato di linguaggio della diplomazia, però io non so il tedesco, ma nel sottofondo sentivo il clangore di quello strukturell, che era piuttosto eloquente. Devono essere strutturali, mica un accento emotivo abbastanza vigoroso. Beh, è un orecchio fino. Grazie Alberto Orioli. Grazie a voi, buona serata. Ciao Alberto. Adesso leggo anche Vittorio sulla pagina Facebook di Effetto Nota, dice: bastasse una dichiarazione per cambiare l'Italia, saremmo il paese più avanzato al mondo, invece guardate dove siamo finiti. E dove siamo finiti con la partita, Dario Ricci, intanto, Roma-Udinese? Beh, non dico che sia finita, però la Roma è già in vantaggio per 2-0, perché dopo il gol di Totti al 22esimo, al 28esimo è arrivata appunto il 2-0 con la rete di Mattia Destro, imbeccato anche stavolta da Gervinho. Quindi siamo al 33esimo, Roma 2, Udinese 0 all'Olimpico. E su questo risultato ci prendiamo, grazie a Dario Ricci, una pausa di pubblicità. Per voi c'è sempre, per le vostre opinioni, la pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tra poco leggo ancora qualcuno dei vostri messaggi sull'incontro italo-tedesco di oggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, però prima vi ricordo quali sono stati i fatti principali. Angela Merkel si dice molto colpita da Renzi, l'Italia cambia, dice. Intanto il premier annuncia riforme ambiziose, non sforeremo i parametri dell'Unione Europea. Sanzioni da Unione Europea e Stati Uniti a Russia e Crimea, Obama dice che Mosca è ormai isolata, Putin firma il decreto sull'indipendenza dell'Ucraina, festa a Sebastopoli. Tragedia per Mick Jagger, la sua compagna trovata impiccata a New York. Poi per il calcio, Napoli vince contro il Torino 1-0 e Roma per adesso conduce 2-0 sull'Udinese. Righi un saluto. Ciao a tutti, sono in cream, Italia. Sono per cantare. Stasiva con Chai. Stasiva. Привет, Крым, привет, Россия. И с вами. Я с вами. Я с вами. Questo così acclamato è un Riccardo Fogli in un russo un po' maccheronico, cara Antonella Scotto, inviata del Sole 24 Ore da quelle parti, che non so se ieri hai fatto tempo a sentire alla festa a Sebastopoli. Era Riccardo Fogli che cantava sul palco, perché sai che hanno grande passione lì per alcuni cantanti melodici italiani. Ciao Antonella. Buonasera. Che oggi ci sono state un po' di critiche, poi l'abbiamo cercato, però lui era stanco, dice che andava a letto e quindi non abbiamo avuto il piacere. Antonella Scott, allora, il referendum della Crimea sulla secessione dall'Ucraina ha avuto come dati definitivi un 96,6% di persone che hanno votato per la secessione, quindi profondamente filorussi sono in Crimea, un plebiscito è stato praticamente, però l'Occidente continua a considerare illegale questo referendum e sono arrivate le sanzioni dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti. Come le hanno prese oggi lì? Come proseguono? Penso che, cioè. Anzi, c'è quasi più. Non sembra che qui, soprattutto qui in Crimea, probabilmente a Mosca il discorso è molto diverso, però qui in Crimea non sembra che ci sia neanche il tempo di preoccuparsi, di pensare alle sanzioni. C'è anche quasi un po' un modo per sfidare la comunità internazionale, proprio perché qui l'atteggiamento è la festa della Crimea è di sentirsi finalmente con alle spalle la Russia, quindi anche nei confronti delle pressioni internazionali cambia l'atteggiamento. Dove prima ci si sentiva parte, una regione autonoma, quindi con un legame diverso nei confronti dell'Ucraina, però comunque uno stato lontano. Forse è proprio questo che invece la ragione di questo entusiasmo degli abitanti della Crimea nei confronti di Mosca, la speranza di avere finalmente di nuovo uno stato forte che li protegge, quindi anche nei confronti delle pressioni, dell'ostilità internazionale. Ma qui davvero prevale un grande atteggiamento, una grande euforia. Questo naturalmente ricordiamolo anche per capire bene il risultato del referendum. È la maggioranza di etnia russa che abita qui, i filorussi che hanno questa hanno voluto questa svolta. C'è una minoranza di ucraini e di tartari di Crimea che non hanno partecipato al referendum, quindi anche il risultato deve tenere conto, oltre ai possibilissimi brogli, anche il fatto che una buona parte della popolazione non si è presentata, non ha votato. Infatti, scusa Antonella se ti interrompo, ma proprio dagli Stati Uniti Obama diceva che effettivamente c'era il rischio che fossero state un po' imbrogliate le carte. Poi, come no? Sì, questo sicuramente, anche perché era comunque un risultato, erano delle percentuali che venivano già comunicate con certezza prima dell'apertura dei seggi. Quindi direi che non ci sono stati non sono stati accolti osservatori dell'OSCE, quindi insomma sul modo in cui sono stati raccolti e contati i voti ci sono grossissimi dubbi. Basta pensare che appunto i tartari, che sono il 12%, 12 qualcosa per cento della popolazione, in blocco non hanno votato. È soltanto un esempio, però in uno dei seggi che abbiamo visitato, in un villaggio dove la maggioranza degli abitanti, che sono circa 400, soltanto 4 tartari avevano votato, quindi sicuramente è una grossa parte degli abitanti. Questo è importante saperlo. Hanno dato il loro consenso. Certo. Antonella, prima di lasciarci, due cose volevo chiederti. È vero che intanto quando ci sarà il passaggio definitivo? Quando questo è ancora molto incerto, ma forse soltanto fino a domani. Ah, perché Ci sono dei tempi, ci sarebbero dei tempi diciamo tecnici, per cui era previsto che venerdì prossimo la Duma si riunisse per approvare le leggi che devono consentire l'ingresso di un nuovo soggetto nella federazione. In realtà diciamo il mistero che ancora resta dovrebbe essere sciolto domani, perché è stato annunciato un discorso in pompa magna di Putin al Cremlino, davanti alle Camere riunite, davanti ai governatori delle regioni, in cui finalmente si dovrebbe capire esattamente qual è la posizione del Presidente, che questa sera ha firmato un decreto in cui riconosce la sovranità della Crimea come Stato indipendente, ma questo dovrebbe essere il passo intermedio per arrivare poi a dire questo Stato noi lo prendiamo con noi nella Federazione Russa. Ecco, su questo sapremo soltanto domani se Putin si vuole fermare un po', appunto per forse anche sotto la pressione, le pressioni internazionali, magari si ferma e lascia la Crimea in questo limbo semplicemente accettandone la sovranità, l'indipendenza dall'Ucraina, oppure se invece va oltre e allora va di nuovo a aggravare lo scontro con Stati Uniti ed Europa e invece annuncia l'adesione della Crimea. Quindi ancora giorni e ore decisive. Antonella Scotta, avremo modo di sentirci. Domani. A domani allora. Ciao Antonella. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. In pochi secondi ve le ricordo, naturalmente il vertice italo-tedesco con Merkel, che ha detto sono molto colpita da Renzi, l'Italia che cambia, e Matteo Renzi ha detto ci sono delle riforme ambiziose, non sforeremo i parametri dell'Unione Europea. Avete sentito sanzioni europee e americane a Russia e Crimea, e Obama dice Mosca è isolata e Putin firma il decreto sull'indipendenza della Crimea. E per le europee, dalla commissaria Reding stop alla candidatura di Berlusconi, dice le norme sono chiare ma non entro in questioni nazionali. Adesso invece parliamo di questa ricerca del CNR, poi preciserò in particolare da che settore, che riguarda un allarme relativo ai più giovani, una ricerca fatta tra studenti, studentesse delle scuole superiori, che pare che riprenda a crescere tra i ragazzi il consumo di droghe. Ci facciamo però spiegare bene quali sono gli elementi di questa ricerca da Sabrina Molinaro, che saluto. Buonasera Molinaro. Buonasera a voi. Responsabile della ricerca ESPAD Italia, realizzata dal CNR, Istituto di Fisiologia Clinica di Pisa. Quindi in realtà c'era stata una diminuzione negli ultimi anni del consumo di droghe da parte dei più giovani, invece adesso sta riprendendo, Molinaro? Sì, diciamo che c'era stata una contrazione dei consumi occasionali che era partita negli anni della crisi, sostanzialmente dopo, dal 2007-2008 in poi, abbiamo visto diminuire i consumi un po' di tutte le sostanze, quando parlo di consumi una tantum. Altro discorso invece per quanto riguarda i consumi frequenti, cioè quando guardiamo la popolazione di studenti che riferiscono un uso diciamo hard della sostanza 20 o più volte al mese per la cannabis o 10 o più volte al mese per le altre sostanze, invece è dal 2007 che stiamo vedendo un aumento di questi consumi. Quindi a fronte di un minor numero di soggetti che fanno un uso una tantum, sperimentano la sostanza, osserviamo un maggior numero di studenti che invece ne fanno un uso quantitativamente più forte. Ma leggo anche in questa ricerca che ritorna l'eroina tra le droghe più consumate, però non attraverso le siringhe, ma perché viene fumata. Sì, in realtà l'eroina è una delle sostanze meno consumate in questa fascia di popolazione, comunque il dato dell'eroina rimane sotto i livelli di tutte le altre sostanze. È vero che comunque se per quanto riguarda l'eroina avevamo visto una diminuzione che aveva portato nel 2009 all'1% degli studenti che riferiva a un consumo una tantum di eroina, ora siamo risaliti all'1,3%, quindi piano piano questi consumi lentamente ogni anno li vediamo crescere. Non è un vero e proprio allarme, perché è qualcosa che noi stiamo vedendo di anno in anno, e sono i trend in questo tipo di studi che spiegano il fenomeno e come questo fenomeno si muove all'interno del nostro paese. Sabrina Molinaro, ma voi, a parte naturalmente riscontrare che cosa succede, ma sapete anche dare una spiegazione del perché sia di nuovo ricresciuto il consumo? In realtà noi possiamo fare delle supposizioni provando a mettere insieme più dati e cercando di capire come mai ci sono dei momenti in cui questi trend di consumo sembrano modificarsi. Una cosa che si vede abbastanza bene dall'analisi di questi 10 anni di studio, perché lo studio ESPAD noi lo ripetiamo dal 99, quindi insomma abbiamo un bel periodo storico da rilevare, vediamo che i consumi hanno avuto, appunto per quanto riguarda i consumi una tantum, hanno avuto un andamento sostanzialmente stabile. C'è stato un momento dopo il 2006, quindi dalle modifiche apportate dalla fine di Giovanardi sostanzialmente, in cui abbiamo assistito a una contrazione dei consumi di cannabis, sempre una tantum, che però è andata di pari passo con un aumento dei consumi di altre sostanze, come ad esempio gli stimolanti, tutte quelle sostanze chimiche, da GHB, ecstasy, metanfetamine, anfetamine, che sembrano aver avuto un boom sul nostro mercato in quegli anni. Però tutto questo ha avuto un effetto per circa 5 anni, cioè si vede proprio un cambiamento nella direzione di questo mercato, perché comunque possiamo parlare di un mercato, anche se è un mercato parallelo, e che poi ha ripreso in questi anni ha ripreso il suo andamento. Infatti la cannabis ricomincia a crescere, le metanfetamine, insomma le sostanze stimolanti sintetiche, continuano il loro andamento in crescita, e piano piano vediamo che riaumenta anche il consumo di eroina. Per quanto riguarda la cocaina invece i consumi sembrano essersi stabilizzati, quantomeno per quanto riguarda l'uso una tantum. Avevamo visto un incremento fino al 2009 che poi è andato invece stabilizzandosi negli ultimi anni. L'ultima cosa, leggevo proprio oggi una notizia che arriva da Milano. 4 studenti di un istituto tecnico di Milano sono stati portati in ospedale dopo aver fumato uno spinello durante l'intervallo delle lezioni, quindi diciamo rientrano pienamente in questo studio che avete fatto, fra l'altro neanche fuori dalla scuola ma durante l'intervallo. Sabrina Molinaro. Sarebbe interessante sapere che cosa hanno fumato questi 4 studenti, su questo io non lo so. Perché dice la cannabis non è sufficiente addirittura a portarli in ospedale, insomma chissà no, che cosa c'è. Potrebbe essere, dipende che tipo di cannabis, che tipo di sostanza. Io su questo mi dica solo in conclusione, c'è una differenza di uso tra ragazze e ragazzi o come quantità? Assolutamente sì, c'è una grossa differenza, diciamo che mediamente i maschi consumano il doppio rispetto alle femmine, cioè sia per quanto riguarda una prevalenza una tantum, sia per quanto riguarda una prevalenza hard, cioè quando parliamo di consumatori frequenti. Questo è vero per tutte le sostanze tranne che per l'utilizzo di psicofarmaci senza prescrizione medica, dove invece sono le ragazze a consumare più dei maschi. E qui ci vorrebbe uno studio sociologico e psicologico molto interessante, ma per il momento non abbiamo tempo. Grazie intanto Sabrina Molinaro. Grazie, grazie CNR di Pisa. Buonasera. Grazie. Finisco di leggere giusto qualche messaggio vostro invece sull'incontro italo-tedesco. Massimo che dice: è stata soprattutto colpita Merkel dalla velocità di Renzi nel calarsi le braghe, secondo il suo punto di vista. Arturo: la Merkel sta in Germania, può dire quello che vuole, siamo noi che purtroppo abbiamo Renzi. In ogni caso siamo in campagna elettorale, giustamente la cancelliera sponsorizza chi le fa comodo. Poi invece Fabio dice: la storia che si ripete, 20 anni fa Berlusconi ci martellava con le sue TV e giornali, ora tutti voi giornalisti ci state martellando per farci digerire Renzi per forza, i primi che si devono vergognare sono i giornalisti per l'informazione che fanno in Italia al 74esimo posto, mi sembra che cerchiamo di darne un'informazione il più possibile imparziale per quanto possa essere possibile. Ci fermiamo adesso, c'è una pausa e poi tra poco vi ricordo i titoli e aggiornamenti del calcio.